perché come mai ti infanghi? Ma dove vai fino a quando rimandi? Mai una volta che m'avessi visto, qui sono io che esisto, è l'unico che ritorna, sai che non vale il rischio, mica appassisco. Qualche colpo di troppo ma lo digerisco, non mi chiedere com'è, nemmeno so come la definisco. Dicono che aia, faccia di chi non sbaglia, l'unica cosa che non mi convince è che se poi sta tipo se la baia. Dicono che sia sempre meglio provarci in anticipo, se mi ci sta mi felicito, se non ci sta me lo dice esplicito. Ho troppi bisogni e non c'è modo che io mi vergogni, ma se poi non ti impegni di stare con noi te lo sogni. Il trucco è quello di farla sentire importante, più delle volte risulta incostante, ingombrante. Sai che cosa c'hai te? Cosa? Che non ti metti ad ascoltare il prezzo da pagare per averle. Il trucco è quello di farla sentire importante, ma il più delle volte risulta incostante, ingombrante. Sai che cosa c'hai te? Cosa? Cosa? Che non ti metti ad ascoltare il prezzo da pagare per averle. Ti lamenti perché ti dicono che sei un fantoccio. Analizziamo un attimo la tua tecnica d'approccio. Tu proprio le donne non le sai mettere a proprio agio. Questo è da premettere per individuare il personaggio. Segni distintivi praticamente tutti. I tuoi difetti mai che li ammetti. La frase che le donne più ti ripetono ma la smetti? Oh, guarda che sei tu che ti ci metti. La vita tu te la complichi. Tu da uomo hai dei compiti. Presentati senza dare troppo nell'occhio. Un po' sì ma non troppo marmocchio. Il trucco è quello di farla sentire importante, più delle volte di tutto ingombrante, incostante. Sai che cosa c'hai te? Cosa? Cosa? Cosa? Che non ti metti ad ascoltare il prezzo da pagare per averle. Il trucco è quello di farla sentire importante, ma il più delle volte di tutto incostante, incollante. Sai che cosa c'hai te? Cosa? Cosa? Che non ti metti ad ascoltare il prezzo da pagare per averle. Troppi discorsi buttati aspettando reazioni, molte che ti fanno il sorriso solo in certe situazioni. Fazioni vogliono troppe attenzioni, e chi viaggia mi ha detto fatti le tipe d'altre nazioni. Uomo, qui non si sta concludendo niente di buono, niente di meglio che provo, qui niente di nuovo. È la distanza che non percepiscono, è normale farsi le storie del tipo qui non mi capiscono. Sono miglia su miglia, la mia velocità mi consiglia, è la paura che in fondo a noi non ci assomiglia. Qui chi ci assiglia se do retta tutto quello che la tele mi passa, se do retta la massa una sola di lei non mi basta. Resti per le mie amiche il male peggiore, ci vuole un sì. Non dei ragazzini che ancora giocano a fare i cretini, che non si innamorano perché privi di una coscienza che deve crescere, che sarà quella che negli anni ti farà ricredere. Di tutte quelle frasi per ora non c'ho testa, raccontalo ai trentenni che sono rimasti senza. Il trucco è quello di farla sentire importante, il più delle volte risulta incostante, ingombrante. Sai che cosa c'hai te? Oh, ma cosa c'ho? Che non ti metti ad ascoltare il prezzo da pagare per averle. Il trucco è quello di farla sentire importante, delle volte risulta ingombrante, incostante. Sai che cosa c'hai te? Cosa? Cosa? Che cosa? Non ti metti ad ascoltare il prezzo da pagare per